Olè, bentornati al nostro spazio di informazione settimanale su Radio Wombat. Oggi vi annuncio che sono da solo in studio, quindi dovrete avere un po' di pazienza perché farò parecchio casino sia con la lettura delle notizie sia con la selezione musicale. Io tra l'altro ho molta poca fantasia per quello che riguarda le canzoni, quindi magari metterò 6 volte di fila lo stesso pezzo per non doverci stare a pensare. Una settimana che si è chiusa con relativamente pochi avvenimenti, però avvenimenti molto, molto densi di significato. Continua infatti a tenere banco soprattutto la questione dell'immigrazione, con quello che potremmo definire un vero e proprio caso che si è aperto domenica scorsa col rifiuto di Salvini di far attraccare la nave Aquarius in Italia, nave che proprio in questi ultimi giorni invece è approdata in Spagna, dove il governo subentrato del neo primo ministro Sanchez ha dato la sua disponibilità ad accogliere i migranti. Quindi questa puntata, che forse durerà un po' meno, anche per il fatto che io dopo un po' finisco la voce, si verterà soprattutto nella parte iniziale su approfondimenti per quanto riguardano la questione migranti nel nostro paese. E poi andremo a vedere invece brevemente le altre notizie che sono successe nel nostro paese e non in questa settimana che si è appena chiusa. Visto che parliamo di migranti, iniziamo con un pezzo a tema che mette in collegamento quelli che erano i migranti di ieri, ovvero noi europei e principalmente noi italiani, con quelli che sono i migranti di oggi. Questo è Murubutu sull'Atlantico. Dammi un abbraccio, due baci, ognuno fa quello che può. Prendi coraggio e una sciarpa, farà freddo a New York. Gianni come molti partiva dal molo più a sud. La nonna gli parlava con gli occhi: non ti rivedrò mai più. Non era ancora un uomo, aveva braccia e polpacci forti. È il sogno del nuovo mondo, come altri compatrioti che vedevano nell'America una vita senza fame. Bastavano 2 settimane per raggiungerne i porti. E lo videro sparire sulla strada accanto nera, tra le vigne e i gelsi bianchi già sepolti dalla sera. Strappò col destro un cimo corto di olivo acerbo. Aveva ancora in tasca quando arrivò al porto di Palermo. Guardò lo sterno in ferro della nave su le acque, nelle tasche un biglietto per l'inferno della terza classe. Un bacio a te mamma, la nave già fra le onde, tu che hai preferito piangermi nella distanza più che nella morte. E quanti anni sono tanti anni fa, e quanto campa un uomo così tanto male. Non sono solo sai porti degli altri, corpi degli altri, morti degli altri. E quali anni sono questi anni qua, e quanto vale un uomo, quanti anni ha. Non sono solo sai mondi degli altri, si scaldano al sole i volti migranti. I migranti ora pregano, stipati nei loro giacigli. Sono i dannati sull'oceano come di Amicis. 2 settimane di agonia fra i pianti dei figli. Qualcuno muore di malattia, volano in mare i corpi dei villici. Lo scafo apre le acque come una forbice, bagna di sale i molti volti esausti sul ponte. Dopo tutto il giorno passato a fissare l'orizzonte, hanno le rughe degli occhi con la forma dei contorni delle coste. Poi l'arrivo all'alba è già mi pare ormai fatta. Massa canta quando la nave attracca Manhattan. Attacca la pancia, la tracca, calma, rovescia la carca. Passa sotto lo sguardo di ogni guardia di Ellis Island. Il sogno dell'uomo si inclina già sul nuovo molo. Gianni un uomo solo fra i tanti, è solo un uomo. È un manifesto monocromo che parla di loro, c'è scritto: attento all'orda dei ratti italiani sul suolo. Gianni lavora ore come scaricatore navale. Dorme testa a piedi con altri 10 in un monolocale. Quando si corica stanco, si gira di lato, scrive di fiato: cara madre, non è questo il paese che avevo sognato. Passa mesi nei porti, mette da parte parte dei soldi. Negli anni Indago diventa Gianni e Gianni diventa Johnny. Ora che i fondi in tasca scappa dai bassi fondi, sposa una paesana, compra una casa nel Wisconsin. Ora una piccola ditta che taglia legname, ma 30 anni sono molti, pensare a casa lo fa stare male. Solca l'oceano e ritorna alla patria Trinacria, dove i fiori di Bougainville sembrano farfalle di carta. Gianni sulla spiaggia di casa sotto il sole che scalpita, guarda il mare, che guarda la costa, che guarda l'Africa. Poi all'orizzonte scorge un barcone finto di corpi e dolore. Gianni rivede se stesso, il migrante ha un solo colore, un solo nome. Quanti anni sono? Tanti anni fa. E quanto campa un uomo così tanto male. Non sono solo sei porti degli altri, corpi degli altri, morti degli altri. E quali anni sono questi anni qua? E quanto vale un uomo, quanti anni ha? Non sono solo sei mondi degli altri, si scaldano al sole i volti migranti. E quanti anni sono? Tanti anni fa. E quanto campa un uomo così tanto male? Non sono solo sei porti degli altri, corpi degli altri, morti degli altri. E quali anni sono questi anni qua? E quanto vale un uomo, quanti anni ha? Non sono solo sei mondi degli altri, si scaldano al sole i volti migranti. Olè, e quindi iniziamo subito la nostra puntata di oggi, andando a portarvi informazioni da quello che è il mondo delle migrazioni e il mondo degli emigranti. E iniziamo leggendo il report di quello che è stato il campeggio itinerante Passamontagna, a cui anche inviati di Radio Wombat hanno partecipato. Questa 3 giorni si è svolta alla frontiera italo-francese in Alta Valsusa, e per 3 giorni appunto è andata a parlare del meccanismo frontiera e a sfidare il meccanismo frontiera, attraversandolo più volte da una parte e dall'altra. Andiamo a leggere il report preso dal sito di informazione Round Robin. Con il campeggio itinerante Passamontagna, per 3 giornate abbiamo camminato su strade e sentieri di queste montagne di frontiera. Le abbiamo attraversate in corteo, tra canti, musica e cori. Abbiamo discusso e fatto assemblee, dibattiti sul dispositivo frontiera, sul sistema dell'accoglienza, sulla mercificazione e lo sfruttamento dei flussi migratori messi in atto dagli Stati. Abbiamo attraversato quella linea immaginaria chiamata frontiera per ribadire che non la riconosciamo. Non abbiamo chiesto documenti a nessuno. Contro ogni sistema che divide, categorizza e seleziona, contro il dispositivo repressivo che parte dai paesi di origine che gli stati occidentali ancora colonizzano e sfruttano, dai centri di accoglienza, dai CPR, dalle retate nella città, fino ad arrivare a queste frontiere fatte di divise, gendarmi e militari. Passando dai paesi della Val Claret, interventi, musica, cori, qualche scritta per terra, manifesti antifascisti attacchinate. Non abbiamo dimenticato i responsabili delle 3 morti in frontiera dell'ultimo mese, né i delatori di Generazione Identitaria che si divertono a denunciare i migranti di passaggio. Non abbiamo scordato il braccio operativo di questa frontiera, gli uomini in divisa che ogni giorno perseguitano chi è senza un documento, meno degno anche di una qualsiasi merce che ogni giorno circola da un lato all'altro del confine. Nel mentre il governo italiano con il suo ministro dell'interno in verde si diverte a fare politica sulla pelle dei migranti, chiudendo tutti i porti e bloccando le navi di chi fugge cercando un'altra vita. Questo gioco politico ci fa schifo. In questi 3 giorni siamo tutti arrivati a Brianson. Governi e potenti chiudono le frontiere. Noi con le nostre pratiche le abbiamo aperte e continueremo a farlo. La 3 giorni è passata e il dispositivo repressivo frontaliero continua nella sua opera di selezione, che è da tempo diventata assassina. Un ragazzo è stato pestato alla PAF l'altra notte, dopo essere stato preso dalla polizia mentre cercava di arrivare in Francia. Hanno pestato perché non accettava il respingimento in Italia, né di fermare i fogli di refus d'entrée. Nelle ultime settimane, sempre più spesso, chi cerca di passare il confine si ritrova minacciato dalle armi dei gendarmi e dei militari, che intimano di aprire il fuoco su chi non accetta le intimidazioni. Negli ultimi giorni, numerosi minori sono stati respinti, nonostante anche le loro leggi dicano il contrario. Ieri un ragazzo di 17 anni, molto malato, ha tentato per 2 volte di arrivare alla PAF per farsi portare all'ospedale. Voleva essere preso in carico dal sistema francese, dopo mesi di malattia non curata nei centri di accoglienza in Italia. Faceva fatica a reggersi in piedi. Gli hanno detto che l'avrebbero portato in ospedale subito, invece ingannandolo gli hanno fatto firmare un foglio dal contenuto sconosciuto prima di riportarlo in Italia. La nostra rabbia non si placa. anzi aumenta. La militarizzazione continua a uccidere. I neofascisti non se ne sono ancora andati. Non lasceremo queste valli in mano a una militarizzazione che continua a uccidere. A gruppi fascisti che tentano di insinuarsi in questi territori, resteremo su queste montagne, le attraverseremo e continueremo a lottare, perché delle frontiere non restino che macerie. Questo contenuto è tratto da, per chi volesse rimanere informato, da blog Urria, scritto H-U-R-R-I-Y-A, che per chi non lo sapesse vuol dire libertà in arabo, .noblogs.org. Ok, andiamo avanti, sempre per quanto riguarda la questione migranti, su cui questo articolo comunque narra di esperienze di lotte concrete messo in luce, soprattutto tenendo ben presente una cosa che non sempre è riconosciuta da tutti, non è ancora diventato senso comune, ovvero che purtroppo la frontiera non è una cosa che riguarda solo i nostri confini, ma è un meccanismo diffuso in maniera omogenea, cioè omogenea non proprio, diciamo, però è diffuso in maniera totale sul territorio, dove ovviamente ha dei punti di densità diversi a seconda sia degli interessi politici che regnano al momento, sia della sensibilità degli stessi punti che andiamo ad attraversare. Basti in effetti pensare alle nostre città, dove per un migrante senza documenti qualsiasi poliziotto che può intervenire e fermarlo rappresenta una frontiera, poiché quel poliziotto potrebbe essere il meccanismo che lo porta magari in un centro di rimpatrio. E in particolar modo questo vale per i centri delle nostre città, che devono mantenere un'immagine di decoro e di polizia con cui la figura del migrante, magari con la pelle di colore scuro, magari che vende chincaglierie per poter raccattare qualche spicciolo, è una figura che stona con l'immagine di pulizia totale che si vorrebbe dare ai nostri centri storici, sempre più attraversati da flussi di quelli che potremmo ormai definire merci, perché il turista cos'è se non una merce, e quindi si cerca in maniera sempre più costante di allontanare questi soggetti dal centro della nostra città, andando a costituire quello che è di fatto un altro utilizzo possibile del meccanismo frontiera. Ok, andiamo avanti, parlando appunto di quello che è stato il caso Aquarius, e andiamo ad affrontare un articolo che è tratto dal blog JAP, che è il blog gestito dal collettivo di scrittori bolognesi Wuming, che parla appunto soprattutto del lato spagnolo della vicenda Aquarius. Spagna che infatti ha accolto la nave, facendo anche in questo caso un'operazione che più che genuinamente umanistica o umanitaria, come si dice ora, che è un termine abbastanza agghiacciante se ci pensate, sembra un gesto più che altro politico. E Wuming va un po' a decostruire questo gesto. L'articolo infatti si chiama La Spagna, un paese incantato che esiste solo in Italia. Da Viva Zapatero al bel gesto, tra apostrofi, sull'Aquarius. Scritto da Victor Serri. Ancora una volta, la Spagna riempie le prime pagine italiane. La mozione di sfiducia al conservatore Rajoy ha fatto diventare premier il socialista Pedro Sánchez. E così, per Left, la Spagna vede rosso, mentre per il manifesto è semplicemente cambio. Scompare la questione catalana, già passata di moda, e si torna alla visione idilliaca della Spagna pre-crisi del 2008. Dai 1000 feriti del referendum del 1 ottobre ci separa meno di un anno e sembra che tutto si sia già risolto con un nuovo governo. È chiaramente una narrazione distorta che nega la complessità dei processi politici, istituzionali e di movimento. Quest'idea della Spagna felice ha cominciato a formarsi una quindicina d'anni fa. Fino ai primissimi anni del nuovo secolo, la Spagna era vista come un paese economico per andarci in vacanza, leggermente esotico. Se ne sapeva poco e, al di là di un interesse politico per il conflitto basco, solo pochi specialisti ne parlavano. Era la terra del flamenco, delle spiagge, delle belle vacanze. Ma nel 2002 esce un film intitolato L'appartamento spagnolo. Parla di studenti Erasmus, di una vita di amori e viaggi, della ricerca di una realtà aperta in una Barcellona aperta, soleggiata, gioiosa. In Italia sono gli anni dell'editto bulgaro di Berlusconi, della legge Biagi, del dibattito sul conflitto di interessi. C'è appena stato il G8 di Genova e si respira repressione, mentre la sinistra istituzionale comincia ad annaspare. Proprio l'editto di Sofia è uno dei presupposti del documentario Viva Zapatero di Sabrina Guzzanti del 2004. Vi si parla ancora dell'Italia e della Spagna, comparandole con una visione bianco contro nero. José Luis Rodríguez Zapatero, il leader socialista spagnolo, diventa l'esempio da seguire. Lui, capace di trasformare un paese, affermando una reale libertà d'espressione nelle televisioni nazionali, è l'antitesi di Berlusconi. Si ritorna a guardare alla Spagna, ma la visione ora è cambiata. È una terra di democrazia e libertà. Inseriamo questi nuovi elementi nel tradizionale immaginario collettivo italiano sulla Spagna, un paese dove si mangia la paella, c'è il sole, il mare, sesso facile, divertimento a prezzi modici. Un immaginario in parte costruito durante il franchismo per dar vita a un'industria turistica, ma che ha svolto anche una seconda funzione, imporre l'immagine di una nazione unica e omogenea. La Spagna non si è mai sentita così, neppure negli anni neri della dittatura. In quel momento si forma in Italia un'idea, quella della fuga, fuga dei cervelli, o per cercare un posto migliore dove vivere, anche dove vivere a sinistra, cosa che in Italia sembra meno possibile. Detto fatto, inizia la migrazione verso la Spagna. Nel giro di pochi anni, quella italiana diventa la prima comunità di stranieri a Barcellona, e il flusso migratorio è costante, sostenuto anche dai media italiani. Il Fatto Quotidiano apre addirittura una sezione in cui si raccolgono le testimonianze dei cervelli che hanno deciso di emigrare, principalmente nella penisola iberica. La narrazione è abbastanza semplice e ripetitiva. Un giovane italiano, formato e preparato, non riesce a vivere nel bel paese, quindi decide di andare all'estero e la sua vita diventa un successo. Con tutto questo background culturale è quasi ovvio che si vede in modo distorto questo nuovo governo spagnolo, negandone tutte le criticità. Sanchez diventa un nuovo condottiero delle sinistre, abituata alla sconfitta. Batte Rajoy e le destre, annulla la corruzione, è progressista, porta il suolo dell'avvenire. Un insieme di elementi perfetto, è impossibile. Per rendere epico il racconto bisogna parlare di una grande vittoria, che in realtà non c'è stata. Infatti Sanchez è riuscita a vincere la mozione di sfiducia unendo partiti molto diversi tra loro. I socialisti e Podemos sono fortemente unionisti, ma per permettere loro di ottenere la maggioranza dei voti sono stati gli indipendentisti baschi e catalani. Non c'è una vittoria alle urne, né una maggioranza nelle due camere, ma una convergenza su un solo punto, e molto fragile, che renderà difficile legiferare. Inoltre, per poter ottenere il sostegno del Partito Nazionalista Basco, Sanchez ha dovuto accettare di non toccare la legge finanziaria appena approvata dal governo Rajoy, soprattutto nella parte inerente al finanziamento a Euskadi. Si fanno paragoni tra il governo del Partito Popolare, conservatore e corrotto, e il nuovo governo di Sanchez, che ne esce come progressista e pulito. Ma proviamo a vedere chi sono i ministri. E questa parte magari la saltiamo perché è un po' lunga. Allora, arriviamo a quella che è forse la parte più interessante. L'analisi della questione Aquarius. L'idea del cambiamento targato Sanchez viene rafforzato dalla vicenda dell'Aquarius, la notizia con cui si è aperta la settimana informativa tanto in Italia come nello Stato spagnolo. Lunedì 11 giugno arriva la notizia. Una nave che ha soccorso più di 600 migranti nel Mediterraneo non trova un porto per farli sbarcare e metterli al sicuro. Il ministro dell'interno italiano Salvini si oppone. rimbalza le responsabilità a Malta, la quale se ne lava le mani. Aquarius resta in mezzo al mare, tra Italia e Malta, in attesa di ricevere ordini dai centri di salvataggio marittimo. I giornali ne parlano, i social network si infiammano, fino a quando esce un comunicato del governo spagnolo che sblocca la situazione. Aquarius potrà attraccare al porto di Valencia. La richiesta viene principalmente da Zimo Puig, socialista, presidente della Generalitat Valenciana, sostenuto dai partiti di sinistra come Compromís, una formazione valenziana legata a Podemos. La notizia arriva poche ore dopo quella sul Partito Popolare Valenciano, condannato per finanziamento illecito. L'immagine del cambiamento. Sembra una situazione in cui tutti vincano. Salvini celebra la vittoria, il governo di Malta pure, e la vicepresidente della Generalitat Valenciana, Monica Oltra, la sindaca di Barcellona, Ada Colau, e i socialisti si fanno forti del bel gesto. Tutti contenti, insomma. Il governo Sanchez ha già mostrato un cambiamento di direzione importante. Accoglie i rifugiati e istantaneamente si rafforza l'ideale della Spagna come paese fantastico che dà lezioni di umanità, accoglie migranti e solidale. Ancora una volta si guarda la Spagna con ammirazione. È il segnale di un cambiamento nelle politiche dello Stato spagnolo sull'immigrazione? Finora non c'è stata nessuna dichiarazione ufficiale al riguardo. Le barriere di Ceuta e Melilla restano lì, a difendere le enclave spagnole nel territorio marocchino, per impedire l'arrivo dei migranti. Parliamo di barriere di 8 e 12 chilometri, rispettivamente composte da tre reti parallele, con filo spinato tagliente, costruite durante il governo di Aznar. Inizialmente il progetto prevedeva una rete di 3 metri d'altezza, ma con il tempo si è trasformata in una sorta di muro tecnologico. Sensori sotterrati nella vicinanza della rete captano il movimento di chi si avvicina. Camere di sorveglianza controllano il perimetro 24 ore su 24. Nel 2005, in pieno governo Zapatero, la rete passò da 3 a 12 metri di altezza. Il fatto più scuro è la tragedia del Tarajal. Il 4 febbraio 2014, 15 migranti annegarono mentre cercavano di aggirare la barriera via mare, nuotando verso la spiaggia di Ceuta. Facevano parte di un gruppo di 200-300 persone che cercava di raggiungere a nuoto la costa spagnola. Mentre nuotavano, 56 agenti della Guardia Civil cercarono di impedirne l'arrivo, scaricando sul gruppo 145 proiettili di gomma. Solo 23 arrivarono sulla spiaggia, ma per poco tempo. Vennero catturati e riportati istantaneamente in territorio marocchino. Di quel caso hanno parlato i movimenti sociali, tramite il documentario Tarajal, Desmontando la impunità nella frontera sud, che ha portato anche a un processo giudiziario per trovare tra i membri della Guardia Civile i responsabili di quelle morte. Non solo, anche i CIE continuano a funzionare perfettamente. Curiosamente, quello della zona franca di Barcellona venne inaugurato un anno dopo l'uscita nelle sale del documentario di Sabino Guzzanti, da quel governo che tanto ammirava. Proprio in questo CIE, nel 2012, morì Idrissa Diallo, un giovane guineano che aveva saltato la barriera di Melilla pochi mesi prima. Arrestato e portato a Barcellona, morì per negligenza medica, sotto custodia dello Stato. Furono sempre i movimenti sociali a scoprirlo e a raccontarlo, fino ad organizzarsi per poter rimpatriare il corpo del giovane, che era stato sepolto in una tomba anonima nel cimitero del Montjuïc. Al giorno d'oggi continuano le pratiche di detenzione e deportazione dei migranti non regolari. Recentemente è stato deportato in Marocco un giovane che richiedeva asilo per la sua condizione di omosessuale. Se non rappresenta un reale cambiamento nelle politiche sull'immigrazione, quali sono le ragioni del bel gesto? Mentre si parlava di Aquarius, nello Stato spagnolo si svolgeva la prima seduta del dibattito sulla legge finanziaria del Senato, una finanziaria fatta dal Partito Popolare, che il Partito Socialista di Sanchez ha deciso di approvare senza modificarla. Sembra paradossale. I socialisti del cambiamento che vogliono approvare una finanziaria fatta da un governo conservatore. È una questione strategica. Considerando i complessi e fragili equilibri su cui si appoggia, il governo Sanchez non avrà la forza per fare una finanziaria nuova e difatti ha promesso al PNV di mantenere quella attuale. Sì, perché in questa legge il Partito Popolare regalava un aumento del 30% del finanziamento statale al governo basco, che è l'ago della bilancia, in cambio del suo appoggio. Appoggio ora passato a Sanchez, che non può assolutamente farne a meno se non vuole cadere. La finanziaria potrebbe essere il primo grosso scoglio contro cui andrà a cozzare il giovane governo di Sanchez. Per questo, per alcuni analisti politici spagnoli come Arturo Puente, la decisione sull'Aquarius è un modo per capitalizzare consenso elettorale ed evitare i probabili attacchi che arriveranno per l'incoerenza sulla finanziaria. Più che una decisione politica, una mossa pubblicitaria. Ecco perché risulta difficile provare un entusiasmo per un governo che probabilmente non è così reazionario come quello del Partito Popolare, ad esempio sulle tematiche legate all'aborto, ma che su molti punti ne condivide la linea, su come risolvere la questione nazionale aperta dall'indipendentismo, sulla libertà d'espressione, sulle lotte sociali e forse anche sull'immigrazione. Quindi un articolo molto puntuale che mostra come, non diversamente da quello che ha fatto il governo italiano, anche la mossa del nuovo governo spagnolo riguardo ai migranti sia una mossa più che altro politica, poiché infatti nulla è cambiato, null'altro è cambiato rispetto a quello che riguardava le posizioni spagnole sull'immigrazione, che sono posizioni, se possiamo dirlo, molto più dure e molto più reazionarie di quelle che fino ad oggi ha mantenuto l'Italia. Facciamo un altro breve stacco musicale per consentirmi di recuperare un po' di voce e poi continuiamo su questo approfondimento riguardante i temi dell'immigrazione. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. Is it all that glitter is gold? After story had never been told. So now you see the light, hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth. And now when you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Yeah, yeah. Stand up for your rights. Get up, stand up. Get up, stand up. Don't give up the fight. Life is your right. Get up, stand up. So we can't give up the fight. Stand up for your rights. Lord, get up, stand up, keep us traveling on. Don't give up the fight. Yeah. We're sick and tired of your ism, schism, game. Dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna do? Stand up for yeah. Our right. Get up, stand up in the morning. Don't give it up. Stand up for your right. Stand up right now. Get up, stand up. Don't give up the fight. Don't give it up. Don't give it up. Get up, stand up. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Get up, stand up. Stand up for your right. bentornati. Andiamo sempre sulla questione migranti a leggere ora due articoli tratti da Internazionale. Il primo è di Christian Raimo, giornalista che forse voi conoscete, comunque tendenzialmente di sinistra, anche se sicuramente non di sinistra quanto possiamo essere noi, però comunque ha dichiarato anche recentemente, cioè ha dedicato recentemente molti articoli al tema dell'antifascismo, quindi comunque non un ultimo arrivato, ma uno molto interessato su questi temi qui. L'articolo si chiama La deriva del governo, parla esplicitamente delle ultime azioni politiche intraprese dal governo, viene da dire dal governo di Matteo Salvini, anche se così non è, però è indubbio che almeno in queste ultime settimane sia stata lui la figura centrale del governo, molto più di quello che di fatto è il premier stesso Conte. Allora, soltanto negli ultimi giorni il neo ministro dell'interno Matteo Salvini ha dichiarato che per gli immigrati clandestini è finita la pacchia, ha impedito l'attracco della nave Aquarius, ha definito una crociera il pericoloso viaggio dell'Aquarius verso la Spagna, ha condiviso sui suoi canali social i video del blogger Luca Donadel, già responsabile della diffusione di una serie di fake news sull'immigrazione, ha definito un problema l'uccisione di Giulio Regeni, una vicenda che non dovrebbe riguardare l'Italia perché per noi è fondamentale avere buone relazioni con l'Egitto. Ha fatto visita e portato solidarietà ai due agenti responsabili della morte dell'ecuadoriano Jefferson Tomalá durante un intervento per un TSO. Nel frattempo, negli stessi pochissimi giorni, anche l'aria che si respira in tutta Italia si è adeguata a questo clima. Tre giornalisti che seguivano l'inchiesta della Procura di Genova sui presunti flussi finanziari della Lega verso il Lussemburgo sono stati trattenuti e interrogati per 3 ore in questura a Bolzano, senza nessun motivo apparente. A Firenze il corteo funebre di un ragazzo di 29 anni investito e morto in un incidente causato da 2 Rom si è trasformato in una spedizione punitiva verso il campo in cui abitano i 2 responsabili. Praticamente tutte le forze politiche hanno condannato l'intera comunità Rom indistintamente e il sindaco Dario Nardella si è impegnato a smantellare il campo in 1 anno o poco più. Un'insegnante di Torino, indagata per aver insultato i poliziotti durante un corteo contro Casa Pound, è stata licenziata. Una bibliotecaria di Todi, che aveva fatto una selezione di libri per introdurre i bambini alla questione di genere, è stata rimossa dal suo incarico. A Roma, la giunta comunale ha approvato l'intitolazione di una strada a Giorgio Almirante, uno dei fondatori della Repubblica Sociale Italiana. In un tempo limitatissimo, l'insediamento del governo ha spostato l'opinione pubblica su posizioni sempre più fasciste, determinando già alcuni fatti gravissimi. Le forze dell'ordine si sentono sostenute dal governo con una benevolenza che è sinonimo di legittimazione dell'impunità. Varie volte negli anni passati, Salvini si è schierato pregiudizialmente con la polizia e i carabinieri, anche nei casi di abusi da loro commessi, ricorrendo allo stesso meccanismo retorico. Se ci sono delle mele marce, devono pagare, ma secondo me non ci sono. Per esempio nel caso delle 2 studentesse stuprate a Firenze. Nel novembre del 2017 aveva scritto su Facebook: permettetemi però, fino a prova contraria, di avere dei dubbi che si sia trattato di uno stupro e di ritenere tutta la vicenda molto ma molto strana. O sul caso di Stefano Cucchi, il ragazzo picchiato e ucciso dalle forze dell'ordine durante la sua detenzione. A maggio scorso ha detto: io sto sempre e comunque con polizia e carabinieri, se l'1% sbaglia deve pagare, anche il doppio. Però mi sembra difficile pensare che ci siano poliziotti o carabinieri che hanno pestato per il gusto di farlo. Poi ha attaccato la sorella Ilaria, dicendo che si dovrebbe vergognare e che un suo post su Facebook in cui aveva pubblicato la foto del carabiniere indagato per la morte del fratello fa schifo. Inoltre Salvini ha manifestato più volte la sua vicinanza al SAP, il sindacato di polizia che ha difeso a spada tratta i poliziotti responsabili della morte di Federico Aldovrandi e che si dice entusiasta del ministro e del programma di governo, che nella parte dedicata alla sicurezza riprende esattamente quelle che da anni sono le battaglie del SAP. Nel suo discorso al Senato, il giorno dell'insediamento, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva parlato dell'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Lega, rivendicando il suo essere populista e antisistema. Aperte virgolette, se populismo è l'attitudine della classe dirigente ad ascoltare i bisogni della gente, se antisistema significa mirare a introdurre un nuovo sistema che rimuova vecchi privilegi e incrostazioni di potere, ebbene queste forze politiche meritano entrambe queste qualificazioni. Chiuse virgolette. Nei fatti, la forzatura di termine come populismo e antisistema da parte del governo è decisamente vicina a una prospettiva fascista. Limitazione delle libertà fondamentali, legittimazione degli abusi della violenza delle forze dell'ordine, razzismo esplicito, nazionalismo basato sull'idea degli italiani come una comunità di sangue. Il fascismo funziona sempre allo stesso modo. Usa le contraddizioni sociali non per innescare un conflitto di classe, ma per alzare il conflitto all'interno della classe degli oppressi. Il ceto medio impoverito che sente di non avere più sicurezza sociale, il welfare scomparso, le misure di sostegno al reddito clamorosamente insufficienti, un ascensore sociale che invece di salire precipita in basso, contro la nuova classe proletaria, migranti ed emarginati, che i diritti sociali non li ha mai avuti. Se la diagnosi non è difficile, la prognosi invece è molto più complessa, perché il fronte delle forze che si oppongono a questo neofascismo è invece molto diviso, se non polverizzato. E viene da dire che, seppure Christian Raimo si è accorto che questo governo ha pericolosissime derive fasciste, viene da chiedersi perché non se ne accorgano pure altri. È vero che in un paese dove per lungo tempo la sinistra italiana è stata rappresentata dal PD, che non ha fatto altro che rincorrere la destra sul fronte delle migrazioni, Nardella stessa ha detto di voler aiutare soprattutto prima gli italiani, o basta leggere il programma elettorale di quello che era il PD di Renzi per le ultime elezioni, dove lui stesso aveva ribadito in un post su Facebook che non era dovere accoglierli, ma era dovere aiutarli a casa loro, quindi andando addirittura a recuperare non solo quelli che sono le idee politiche di questa parte qua, ma addirittura le parole stesse, le frasi stesse, proprio dimostrando una subalternità culturale totale che, di cui diciamo forse risiede la responsabilità più grossa di questa deriva neofascista che pian pianino sta prendendo piede in Italia. Ok, leggiamo un altro articolo da Internazionale che va invece a vedere ora quello che è proprio nei dati i numeri di questa presunta invasione di migranti, per smontare appunto questo argomento dell'invasione. Di Annalisa Camilli, da Internazionale, non è vero che c'è un'invasione di migranti in Italia. Secondo un sondaggio condotto da Demos nel novembre del 2017, l'ostilità nei confronti dei migranti in Italia alla fine dello scorso anno era in aumento. Un italiano su due diceva di considerare gli immigrati un pericolo e di esserne spaventato. Non si era mai raggiunta una percentuale così alta nel paese. Durante la campagna elettorale per le legislative all'inizio di questo anno, il leader della Lega Matteo Salvini, oggi ministro dell'Interno, aveva promesso una linea dura sull'immigrazione, usando slogan come aiutiamoli a casa loro e prima gli italiani, che si sono imposti nel discorso pubblico. E nei primi giorni del suo incarico di governo, Salvini ha ribadito la volontà di ridurre gli arrivi e aumentare i rimpatri. Eppure i migranti arrivati nel 2018 sulle coste italiane sono quasi l'80%, in meno di quelli dello stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati dello stesso Ministero dell'Interno, nei primi sei mesi del 2018 sono arrivati in Italia via mare 14.441 persone, mentre nello stesso periodo dell'anno precedente ne erano arrivate 64.000. Il fatto è che l'ostilità verso i migranti è stata alimentata da discorsi che incitano all'odio, notizie false, luoghi comuni e stereotipi, che in alcuni casi sono trasformati in veri e propri miti. Proviamo ad analizzarne quattro, con l'aiuto di dati ed esperti. L'Italia è stata lasciata da sola sull'immigrazione? Spesso si dice che l'Italia è stata lasciata da sola di fronte all'arrivo di migranti e profughi dopo il 2011, quando è ricominciata l'ondata migratoria dal Nord Africa, in seguito alla cosiddetta primavera araba e agli sconvolgimenti politici che si sono prodotti nei paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente. Dopo il 2011, infatti, sono saltati gli accordi che l'Unione Europea aveva stipulato con molti paesi extraeuropei per chiudere le frontiere esterne e impedire alle imbarcazioni dei rifugiati di raggiungere le coste del continente. Uno di questi era il Trattato di amicizia tra Italia e Libia, firmato nel 2008 dal governo sirio Berlusconi e dal presidente libico Muammar Gheddafi. Nel 2015 si è parlato della crisi dei rifugiati, soprattutto per i paesi del nord Europa, perché la pressione delle migliaia di persone in fuga dalla Siria in guerra ha aperto la cosiddetta rotta balcanica tra la Turchia e l'Europa settentrionale, un tragitto che nel 2015 è stato percorso da più di 1 milione di profughi, non solo siriani, ma anche iracheni e afghani. La maggior parte è arrivata in Germania e nei paesi del nord Europa, come Svezia e Norvegia. Questa nuova pressione migratoria, che ha interessato in particolare la Grecia e i paesi dei Balcani, ha fatto saltare il regolamento di Dublino III, il sistema comune di asilo europeo, che stabilisce che le richieste di asilo devono essere presentate nel primo paese d'ingresso in Europa. Nell'agosto del 2015, nel pieno della crisi, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato che avrebbe sospeso la norma per accogliere i rifugiati siriani arrivati nel paese. Nel 2015 alcuni paesi come la Francia hanno cominciato a ripristinare i controlli alle frontiere interne dell'Unione Europea, con la motivazione di voler controllare i confini per evitare attentati. Così i migranti e i profughi, che una volta arrivati in Italia dalla rotta del Mediterraneo lasciavano il paese per raggiungere le loro famiglie, in altri paesi europei sono rimasti bloccati alle stazioni ferroviarie italiane e alla frontiera settentrionale dell'Italia, creando situazioni di emergenza a Roma, a Milano, a Como, al Brennero, a Ventimiglia, a Udine. In particolare la Francia ha cominciato una violenta politica di respingimento dei profughi alla frontiera, al valico tra Ventimiglia e Mentone. Contemporaneamente la Commissione europea ha proposto ai diversi paesi europei di ripartire richiedenti asilo attraverso un sistema di quote stabilite sulla base del PIL e della popolazione di ogni Stato e ha istituito gli hotspot nei paesi di frontiera, come l'Italia e la Grecia, cioè dei centri di identificazione dei migranti allo sbarco. L'istituzione degli hotspot ha permesso l'identificazione del 99% dei migranti che sbarcano sulle coste italiane. Prima del 2015, infatti, l'Italia non identificava molti dei migranti che arrivavano sulle sue coste, e in questo modo gli permetteva di raggiungere i paesi del nord Europa senza rimanere incastrati nelle maglie del regolamento di Dublino. Ma dopo il 2015 il sistema italiano è saltato e le persone sono di fatto state costrette a fare domande di asilo in Italia o al massimo a fare richieste di ricollocamento in altri paesi europei, possibilità concessa solo ai siriani e agli eritrei. Successivamente la Commissione europea ha proposto una bozza di riforma del regolamento di Dublino per superare il principio che costringe i paesi di frontiera ad accogliere tutti i migranti arrivati. Al progetto di riforma si è lavorato per 2 anni e dopo lunghi negoziati, nel novembre del 2017, il Parlamento europeo ha approvato una riforma giudicata molto positivamente dall'Italia e dai paesi del Mediterraneo, perché prevedeva quote obbligatorie per il ricollocamento dei migranti. Ma la riforma è stata bloccata dal Consiglio europeo, cioè dai capi di Stato e di Governo dell'Unione europea, che non hanno trovato un accordo proprio sulle quote e sul superamento del principio di primo ingresso. La decisione definitiva del Consiglio dovrà essere presa in un vertice europeo il 28-29 giugno. Il nuovo governo italiano, sostenuto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle, ha respinto la proposta di riforma e non si è nemmeno seduto al tavolo dei negoziati. Salvini ha detto di sentirsi vicino alle posizioni del presidente ungherese Viktor Orban, che è sempre stato contrario alle quote obbligatorie di ripartizione dei migranti, in questo quindi andando un po' contro quelle che sono le dichiarazioni pubbliche che in realtà fa. Quindi da una parte è vero che negli ultimi 3 anni l'Italia e la Grecia sono state lasciate da sole di fronte alla cosiddetta crisi dei migranti e dei rifugiati del 2015, ma allo stesso tempo si è lavorato a un progetto che eliminasse il problema all'origine, la riforma del regolamento di Dublino. Inoltre, all'interno dell'Unione Europea ci sono stati atteggiamenti diversi da parte dei suoi 28 Stati, sono stati in particolare i governi dell'Europa orientale, quelli dei paesi del gruppo di Visegrad, a opporsi alle quote di ripartizione e all'inserimento di principio di condivisione delle responsabilità e di solidarietà, gli stessi governi con cui il ministro dell'interno Salvini sembra essere più in sintonia. Nel marzo del 2016, grazie a un accordo tra Turchia e Unione Europea, la rotta dei Balcani si è praticamente chiusa e gli arrivi verso la Grecia si sono ridotti drasticamente. La rotta del Mediterraneo centrale, quella che collega la Libia all'Italia, è rimasta l'unica aperta per raggiungere l'Europa, ma dal febbraio del 2017 il governo guidato da Paolo Gentiloni ha trovato un'intesa con il governo di Tripoli per chiudere anche quella rotta. Questo ha portato a una riduzione drastica degli arrivi sulle coste italiane. L'intesa è stata molto criticata dai gruppi che si occupano della difesa dei diritti umani. Alcune inchieste, infatti, hanno messo in luce che sono stati coinvolti dei gruppi di trafficanti per bloccare le partenze di migranti in Italia e che il periodo di incarcerazione dei migranti fermati si è esteso. In termini assoluti sono diminuiti i morti lungo la rotta, ma la mortalità è aumentata. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, i migranti che muoiono tentando la traversata del Mediterraneo sono 1 su 33. Nonostante la riduzione degli arrivi, in Italia si continua a parlare di un'invasione, ma in termini assoluti non è l'Italia il paese che ospita più rifugiati, è la Germania, che nel 2017 ha concesso lo status di rifugiato a 325.000 persone, 10 volte di più delle 35.000 dell'Italia, che è pure il terzo paese per numero di rifugiati accolti, dopo la Francia. Anche in termini relativi, l'Italia non è ai primi posti. I dati del 2017, diffusi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, offrono un quadro radicalmente diverso da quello di solito descritto dai mezzi di informazione dei politici. In Europa, il paese con più rifugiati, ogni 1.000 abitanti, è la Svezia, con 23,4 rifugiati, seguita da Malta, con 18,3. L'Italia è undicesima, con 2,4 rifugiati ogni 1.000 abitanti. Nel mondo, i primi 5 paesi con più rifugiati sono extraeuropei. Solo al sesto posto si piazza la Germania. Se si parla poi di immigrati in generale, e cioè di cittadini stranieri che risiedono nel paese, l'Italia ospita 5 milioni di immigrati, che corrisponde all'8% della popolazione, in linea con i livelli degli altri paesi europei. Lo Stato europeo che ha più immigrati è la Spagna, dove gli immigrati sono il 10% della popolazione, seguito dalla Germania. Secondo argomento, si possono rimpatriare 500.000 persone? Tra le prime misure annunciate dal Ministro dell'Interno e Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini c'è il rimpatrio di 500.000 migranti irregolari. Per gli immigrati clandestini è finita la pacchia, ha detto Salvini durante un comizio, dopo aver assunto l'incarico di governo. Molti hanno fatto notare però che sarà molto difficile che il Ministro possa tenere fede alle sue promesse, perché non ci sono accordi di rimpatrio con i paesi di origine dei migranti e perché i rimpatri forzati sono molto costosi. Tra il 2013 e il 2017, secondo un recente studio dell'ISPI, l'Italia ha rimpatriato solo il 20% delle persone a cui è stato consegnato un foglio di via. Ma la principale ragione dell'inefficacia dei rimpatri è il numero di nazionalità diverse dei migranti che arrivano in Italia, più di 60 paesi. L'Italia ha emesso decreti di espulsione in massima misura nei confronti di persone provenienti dal Nord Africa, 49%, e dall'Africa subsahariana, 18%. Roma è riuscita a sottoscrivere solo pochi accordi di riammissione con molti paesi africani e anche quando l'ha fatto, la loro applicazione da parte dei governi e autorità locali è discontinua e disomogenea, afferma il rapporto dell'ISPI. Il giornalista Fabrizio Gatti, sull'Espresso, in un articolo del 17 maggio, ha dimostrato che anche la cifra di immigrati irregolari citata dal Ministro dell'Interno è fortemente sovrastimata. Non sappiamo esattamente quanti migranti irregolari risiedono al momento sul territorio italiano, ma se si sommano le richieste d'asilo respinte dalle commissioni territoriali dal 2014 a oggi, si arriva a una cifra di poco superiore alle 100.000 persone. Inoltre Gatti ha calcolato che per eseguire 500.000 rimpatri ci vorrebbero 27 anni di voli, senza nemmeno un'ora di sosta, e oltre 1,5 miliardi di spesa, più il costo per diarie, indennità di missioni, vitto e alloggio degli agenti di scorta. Terzo argomento, le ONG sono tassi del mare? La formula tassi del mare l'ha inventata nell'aprile del 2017 Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, oggi Ministro del Lavoro e Vicepresidente del Consiglio. Secondo Di Maio, la presenza delle navi dell'ONG davanti alle coste libiche sarebbe un incentivo a partire per chi vuole raggiungere l'Europa. Quelle navi, ha detto in un'intervista, prendono dei migranti in mare, non li salvano mentre stanno per affogare. Per me sono un tassì. Un ricercatore dell'Istituto di Studi Politici Italiano ha deciso di verificare quell'accusa, esaminando i dati sull'attività delle navi e le partenze dalla Libia. La sua conclusione è che i tassì del mare non esistono. Dal punto di vista comunicativo, spiega il ricercatore dell'ISTI Matteo Villa, esperto di politiche europee e migrazioni, la suggestione dei tassì del mare è efficace nel dare l'idea che compiere soccorsi vicino alle coste libiche possa incentivare la partenza dei barconi con i migranti. Ma nella pratica è vero il contrario. I dati mostrano che tra il 2015 e oggi le attività dell'ONG non hanno fatto da pull factor, cioè non sono un fattore di attrazione, e non sono correlate con l'aumento dei flussi. Che le ONG operassero in mare o meno, i flussi non erano influenzati. D'altra parte, sostiene l'ISPI, il governo italiano sapeva che le milizie libiche avevano un controllo forte e accentrato sul traffico di esseri umani e per questo aveva firmato il memorandum d'intesa con Tripoli. La tragedia di Roma era coinvolgere le milizie nella gestione dei flussi attraverso la mediazione del governo di Fayez al-Serraj. Un elemento interessante è che il 15 luglio, quando la milizia da Bashi a Sabrata ha invertito il flusso migratorio, cioè ha bloccato le partenze, tutte le navi dell'ONG erano in mare. Quindi le partenze dalla Libia sono fermate molto prima che l'ONG cominciassero a ritirarsi, afferma Villa. Non c'è una correlazione neanche minima tra le due cose. I dati dicono che la presenza dell'ONG non ha aumentato le partenze. Quarto argomento, che forse è uno dei topic più vecchi e più utilizzati contro le migrazioni, è: gli immigrati ci rubano il lavoro? Uno dei miti più radicati è quello che assegna agli immigrati un ruolo di concorrenti per gli italiani sul posto di lavoro. A rispondere a questa paura ci ha pensato il rapporto sull'economia dell'immigrazione della Fondazione Moressa. Secondo lo studio del 2017, agli immigrati sono riservati solo i lavori non qualificati, in parte rifiutati dagli italiani. Nell'agricoltura, per esempio, la maggior parte dei braccianti è di origine straniera, mentre quasi il 90% degli agricoltori specializzati è cittadino italiano. Viene effettivamente molto difficile pensare a quanti italiani accetterebbero di fare quello che fanno i migranti in Calabria o in Puglia, cioè lavorare 12 ore al giorno nei campi per una paga giornaliera di circa 20 euro al giorno. Gli stranieri non riducono l'occupazione degli italiani, ma assumono progressivamente le posizioni meno qualificate abbandonate dagli italiani, soprattutto nei servizi alla persona, nell'edilizia e in agricoltura, settori in cui il lavoro è prevalentemente manuale, più pesante, con paghe basse e contratti che non offrono nessuna stabilità. Dai dati emerge che più di un terzo degli immigrati svolge lavori non qualificati, il 36% contro il 9% degli italiani. Il 29,3% lavora come operaio specializzato e solo il 6,7% è un professionista qualificato. Tra i lavori che sono più diffusi tra gli immigrati ci sono alcune particolari categorie. Il 74% dei collaboratori domestici è straniero, come il 56% delle badanti e il 51% dei venditori ambulanti. E ancora, il 39,8% dei pescatori, pastori e boscaioli è d'origine straniera, come il 30% dei manovali edili e dei braccianti agricoli. Lo studio conclude quindi che la crescente scolarizzazione della popolazione italiana e la maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro hanno spinto verso professioni a più alta specializzazione. I dati Istat sul mercato del lavoro dimostrano che l'occupazione immigrata e quella autoctona in Italia sono parzialmente concorrenti e prevalentemente complementari. Ta-ta-tam. Della stessa opinione, ovvero che non esista un'invasione di immigrati in Italia, è un giornalista del Sole 24 Ore, quindi giornale totalmente di destra, oseremmo dire, che va ad analizzare quelli che sono i dati online, cioè va a fare sostanzialmente un confronto di dati. Andiamo a leggere. Nel recente dibattito politico il tema dell'immigrazione irregolare raccoglie da diverse settimane la massima attenzione sui media nazionali. La controversa scelta del governo Conte di chiudere i porti italiani alle ONG straniere ha evidentemente dato un fortissimo impulso alla discussione, spesso molto accesa, data la delicatezza del tema. La questione dell'immigrazione irregolare non è evidentemente un argomento nuovo nel dibattito politico. Per certi versi, le ultime elezioni del 4 marzo sono state vinte dai partiti di maggioranza, anche grazie a posizioni intransigenti verso i flussi migratori, esaltando in particolare i rischi connessi con l'immigrazione di massa. Il fatto che i dati circa i flussi migratori segnalino che il problema nei mesi più recenti sia in netta riduzione è stato evidenziato da molti commentatori. Senza dilungarmi su questi numeri, si può comunque citare il fatto che tra i paesi del centro delle varie rotte migratorie, quali Italia, Grecia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia, tutti abbiano registrato una riduzione dei passaggi di immigrati. Secondo le statistiche, Frontex, nel primo trimestre del 2018, Italia e Ungheria, due dei paesi ad oggi più oltranzisti sul tema immigrazione, hanno registrato la flessione più consistente su base annua. Solo la Spagna ha segnato un incremento, anche se in valore assoluto gli immigrati che hanno oltrepassato il confine spagnolo nei primi tre mesi del 2018 sono nel complesso 3.500, contro i 6.000 di Italia e Grecia. A fronte della riduzione del numero di migranti che accedono irregolarmente in Europa, ci si potrebbe aspettare che il problema sia meno sentito dalle popolazioni coinvolte. Ebbene, ciò sembra essere vero, tranne in un'unica e importante eccezione, l'Italia. Per valutare quali sia l'intensità del problema legato ai migranti percepito dalla popolazione di un paese, si può considerare come proxy la frequenza di ricerche effettuate su Google relativa all'argomento immigrazione in Italia e in tutti gli altri paesi, che definiscono il confine esterno dell'Unione Europea. Guardando all'argomento, si esaminano tutte le ricerche che ruotano intorno al tema considerato e che sono effettuate nella lingua ufficiale del paese analizzato. Dal grafico 1 si nota come in Italia l'interesse sul web verso le questioni collegate all'immigrazione mostra una tendenza crescente dal 2013, toccando il massimo dell'interesse proprio nel primo trimestre del 2018. Confrontando l'interesse sul web con il flusso medio mensile di immigrati, si rileva per l'Italia un andamento in controtendenza. A fronte della recente caduta degli sbarchi, l'interesse sul web continua ad aumentare. In nessun altro paese di confine si registra la stessa tendenza. Ungheria, Romania, Croazia, Grecia e Bulgaria hanno visto il picco di interesse in corrispondenza del maggiore afflusso di immigrati, osservato nel 2015. Dopodiché l'interesse è andato scemando e ad oggi si mantiene su livelli molto bassi. Per questo gruppo di paesi sembra esistere un forte legame tra quanti immigrati varcano effettivamente il confine e quanto il problema sia percepito, e quindi anche approfondito attraverso le ricerche sul web. Nel periodo considerato, la correlazione tra flussi di migranti e ricerche web è compresa, per i paesi citati, tra il 40 e il 95%. Insieme all'Italia fa eccezione anche la Spagna, ma per il motivo opposto. Il flusso di migranti non ha infatti indotto un aumento dei timori della popolazione verso gli stranieri irregolari, tant'è che la correlazione tra flussi e ricerche web è negativa. Sulla base dei dati descritti si può anche desumere quale sarebbe stato l'interesse verso l'immigrazione nel periodo più recente, se la relazione tra flussi e ricerche web osservati fino al 2016 fosse rimasta immutata. Dalla differenza tra il valore stimato e il valore effettivo dell'interesse sul web si può stimare il gap di percezione sul tema dell'immigrazione. Nel primo trimestre del 2018 tale gap è stato particolarmente elevato. In conclusione, dall'analisi riportata sembra emergere come in Italia il problema dell'immigrazione irregolare sia fortemente sopravvalutato. Ciò si desume sia guardando ai soli dati domestici, sia dal confronto con gli altri paesi europei di frontiera. L'informazione italiana non sembra quindi aver filtrato a sufficienza la contrapposizione tra i dati fattuali e le pulsioni ostili di una fetta importante della popolazione, dando sfogo proprio a quest'ultima. Tale stato di cose pone un potenziale dirompente problema ed anche una mancata occasione. Relativamente al problema, il forte rallentamento dei flussi migratori è la conseguenza diretta di una gestione molto più severa e attenta da parte di Turchia e Libia, non tanto di un cambiamento delle scelte dei migranti dall'Africa e dall'Asia, che in ogni caso continueranno a premere sui confini europei anche nei prossimi decenni. Nel caso in cui l'approccio di questi due paesi dovesse cambiare, consentendo nuovamente un flusso ingente di immigrati, quali sarebbero le conseguenze sociali per il nostro paese? Si riuscirebbe a governare uno scontento crescente quando già ad oggi si attesta ai massimi storici nonostante il numero ridotto di sbarchi? La mancata occasione è invece legata proprio alla situazione favorevole più recente. Il ridotto numero di sbarchi avrebbe potuto consentire al governo in carica di avviare un serio piano di gestione dell'immigrazione, che dopo 20 anni non si può più definire un'emergenza. con un'opinione pubblica meno balcanizzata, si sarebbero potuti finalmente avviare degli accordi con i paesi di origine dell'immigrazione, al fine di riaprire un flusso regolare di immigrazione. Contestualmente si sarebbe potuto regolarizzare chi è già sul territorio italiano e che negli anni non si è macchiato di alcun crimine, applicando in salsa italiana il programma Dreamers di Obama. In un simile contesto, all'Unione Europea si sarebbe potuto chiedere un ampio contributo in termini di fondi di investimento, con lo scopo prima di costruire abitazioni sociali rivolte extracomunitarie e italiani svantaggiati. Ci avrebbe favorito sia una maggiore integrazione degli immigrati, sia uno stimolo alla crescita economica, anche in un'ottica di lungo termine, visto il deficit demografico che colpisce il nostro paese. Avrei dato spazio alle paure e non consentirà di raggiungere né l'uno né l'altro obiettivo. Quindi, questo giornalista del Corriere, cioè del Sole 24 Ore, scusate, viene proposto sostanzialmente una risposta in salsa welfaristica al problema dell'immigrazione, dove sostanzialmente viene posto l'accento sul fatto che per fare sì che smetta l'immigrazione irregolare non bisogna puntare al fatto che smetta l'immigrazione, perché probabilmente l'immigrazione non smetterà, ma bisogna puntare al fatto che smetta la parte irregolare di questa. Ok, io sto morendo di caldo, non ho più voce, vi metto un altro pezzo, magari due, ora vediamo un po' quanto ci metto a ripigliarmi, e poi andiamo a leggere l'ultimo articolo di questo nostro di questa nostra puntata, su cui ci siamo concentrati principalmente sul tema dell'immigrazione, perché se è vero che l'immigrazione in Italia, come dicevano questi ultimi articoli, è soprattutto una bolla mediatica, è vero che purtroppo sta bolla mediatica la subiamo pure noi. Quindi purtroppo il fatto che si parli principalmente di immigrazione, a noi che tuttora siamo su posizioni molto difensive, non ci consente, diciamo, di imporre un'agenda politica che sia la nostra propria, ma ahimè costringe anche noi a inseguire un attimo il tema che è di maggiore attualità e su cui la popolazione si polarizza di più al momento, e questa è una cosa su cui pian pianino bisognerebbe un po' riflettere. E io oggi ho molta poca fantasia, mi vengono in mente solo cose relative all'immigrazione, anche perché ovviamente mi sono preparato zero per questa puntata, e vi posso garantire che cercare pezzi musicali mentre si leggono articoli di giornale è un casino della Madonna. E vabbè, fatevene una ragione. A tra poco. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Da quando non ci sei la luna piange rosa, e un corvo nero vola sopra la città. Il corvo ha un becco d'oro, un becco tutto d'oro. Vedessi come splende nell'oscurità. Bologna non c'è più, se l'hanno presa loro. È un cumulo di noia che spendi e paghi caro. Bologna è una carogna che non ti vuole vivo. Da quando non ci sei, Bologna non c'è più. Non ti sei perso niente, non ti sei perso niente, non ti sei perso niente, Max. Siamo qui nel letto del diavolo, noi che prendiamo tempo e non vediamo l'ora. Per noi quello che resta è l'ombra di una vita. Vuoi mettere risorgere pazzi? Non ti sei perso niente, non ti sei perso niente, non ti sei perso niente, pazzi. Non ti sei perso niente, non ti sei perso niente, non ti sei perso niente, pazzo. te, non ti sei perso niente, pazzi. Non ti sei perso niente, non ti sei perso niente, non ti sei perso niente, pazzi. E non ci siamo persi niente, infatti questa canzone era dedicata ad Andrea Pazienza, di cui 2 anni fa ricorreva il 30° anniversario della morte. Lui a noi è mancato tanto e probabilmente noi a lui non siamo mancati per niente. Ok, leggiamo l'ultimo articolo, sempre sul tema dell'immigrazione. Ormai questa puntata è monotematica su questo tema, ma d'altronde in questa settimana, oltre ai mondiali di calcio, non è successo granché. Questo articolo è tratto invece da infoout.org. L'autore si chiama Rachid. Si intitola L'ipocrisia dell'umanitarismo, una riflessione sulla questione Aquarius. Il 28 marzo 1997 la Marina Militare Italiana sperona la Cater Prima Rades, uccidendo per annegamento decine di migranti albanesi che cercano di attraversare il mare di Otranto. Per Berlusconi, allora leader della destra italiana all'opposizione, appare in televisione e piange davanti alle telecamere, chiedendosi dove fosse l'umanità dei governanti di allora, delle cose indegne di noi, che non accadranno mai più. Sullo scranno di Montecitorio sedeva allora Romano Prodi, alla sua prima esperienza da Presidente del Consiglio. Ad importare in Italia la pratica del blocco navale non è stato Salvini. Ci aveva già pensato infatti a suo tempo il sinistro sostenitore degli Stati d'Europa e del cosmopolitalismo dei popoli, quelli residenti sopra l'equatore, forse. Giorgio Napolitano, allora ministro dell'Interno, nonché poi Presidente della Repubblica, uno di quelli sostenuti dal Partito degli Intelligenti, che sanno come si scrive impeachment su Facebook, per intenderci, che fra un respingimento in mare e un altro aveva anche trovato il tempo di istituire i famigerati CPT, Centri di Permanenza Temporanea, poi CIE e ora CPR, luoghi destinati all'espulsione dei cosiddetti migranti clandestini, che, brevettati da governi formati da persone che ora parlano di accoglienza e di Europa dei popoli, ancora ci portiamo dietro. L'ultima spinta, in ordine cronologico, alle forme di detenzione amministrativa basate sul possesso o meno del titolo di soggiorno, è stata data dall'ex ministro dell'interno Marco Minniti, il gentleman di ferro del Partito Democratico, che ha deciso di istituirne uno in ogni regione italiana, al fine di velocizzare le procedure di rimpatrio. Il problema è che la psicosi umanitaristica collettiva ha già invaso la rete ed è impossibile ragionare su un problema che va ben oltre le sparate del buffone Salvini, che ha sollevato e fatto esplodere una delle contraddizioni principali della Fortezza Europa, ovvero la chiusura delle frontiere attorno ai paesi dell'Europa mediterranea, Italia e Grecia, causata dagli effetti Dublino III e dalla profugizzazione del fenomeno migratorio, e ha costretto la Spagna, paese famoso per il filo spinato e i muri da 6 metri videocontrollati in ogni millimetro per bloccare i clandestini attorno a Ceuta e Melilla, a far approdare una barca nei suoi porti. Si può obiettare che è una mossa fortunata, ma mi sembra qualcosa di più, forse aver capito la fase politica e, con estremo malincuore, essere stato intelligente. La verità è che si può continuare a raccontare la frotta dell'Europa come vettore di pacificazione razionale dei rapporti fra stati, di strumento volto ad attuare la pace perpetua, o si possono aprire gli occhi e prendere atto della concretezza dell'attuale ordinamento giuridico internazionale, un sistema multipolare basato su nudi rapporti di forza. In questo senso è inutile strillare 420 che il diritto marittimo è stato infranto o che non vengono rispettate le condizioni umanitarie, perché a violarle sono gli stessi che le hanno stabilite e che hanno tutto il diritto di riscriverle, venute meno le condizioni che imponevano tali vincoli e soprattutto se nessuno, sempre nel libero gioco dei rapporti di forza, glielo impedisce. Il paradigma umanitario, divenuto egemone nel mondo unipolare post-sovietico, dei vari filantropi miliardari e delle varie ONG, perde lentamente la propria egemonia sul mondo e tutti paiono accorgersene, salvo le cosiddette sinistre, che, ubriache di chissà quanto veritieri buoni sentimenti, preferiscono schierarsi con Medici Senza Frontiere. Per capirci, organizzazione fondata da Bernard Kouchner, inventore e grande teorico delle guerre umanitarie dagli anni 90 in poi e aperto sponsorizzatore di quella in Libia del 2011. In questo senso è quanto mai necessario smontare le montature mediatiche architettate in maniera brillante dall'entourage comunicativo di Salvini e Co. sui cosiddetti taxi del mare. Le ONG non hanno tradito alcun mandato umanitario originario per sostituirlo con una presunta velleità di sostituzione etnica. Sono enti mediatici, esattamente come i partiti che le accusano, e dovrebbero essere loro i primi a sapere che di media si campa, soprattutto in termini di volontarismo di nazioni e pubblicità gratuita. Conti e statistica alla mano, i salvataggi nel Mediterraneo sembrano pagare bene, ogni dietrologia è fuorviante. Politica non è buoni sentimenti, politica è razionalità dell'analisi, delimitazione del campo dell'amicizia e dell'inimicizia e fratellanza con i propri simili. Non c'entrano nulla le ONG, non c'entrano nulla coloro che fino a ieri stavano seduti a Palazzo Chigi, fingendo di accogliere richiedenti asilo, categoria che è prioritario mettere a critica, salvo poi spedirli indietro senza troppi complimenti alla fine dell'iter di riconoscimento della protezione internazionale, che nella maggior parte dei casi ha esito negativo. Senza un serio ragionamento sulle forme di riconoscimento reciproco fra gli autoctoni che siedono agli ultimi gradini della società e i nuovi poveri che si affacciano sulle nostre coste. Abbaiare quando vediamo passare alla porta il fascismo di Salvini è inutile. Ampliare la frattura interna all'Europa, chiarificare lo spazio del nemico. In primo luogo le ex sinistre che hanno trasformato i nostri paesi in macellerie per poveri e scritto per intero lo scheletro dell'attuale ordinamento giuridico discriminante nei confronti dei non europei. Uscire dal gioco stabilito in maniera bipartisan dai partiti di governo, rifugiato sì o rifugiato no, ricostruendo un discorso sulla frontiera come nemico di classe. E solidarizzare con chi, esattamente come facciamo noi giovani italiani, a migliaia si sposta e cerca una vita appagante e soddisfacente, lontano dalla miseria dei propri odiosi paesi di origine. Il resto sono solo lacrime di coccodrillo. Ok, e con questo articolo in extremis, perché mancano pochi minuti, abbiamo finito anche questa puntata di Wombat News. E vi salutiamo, anzi vi saluto, e vi lasciamo agli altri programmi della giornata, che sono ora subito alle 13.30 Senza Frontiere, seguita da Passaggio a Nord-Ovest, e successivamente dalla stampa rassegnata, che sono comunque la rassegna stampa che si occupa invece che della situazione politica generale della nostra stampa locale. E ci vediamo lunedì prossimo con una voce diversa dalla mia. Se volete riascoltare in me, invece, ci sentiamo il mese prossimo. Queste tematiche sull'immigrazione saranno comunque approfondite nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, da tutte le forze che fanno politica sul territorio fiorentino. Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Wombat per avere informazioni su quello che va avanti nella nostra bella o brutta che sia città. Arrivederci.